mi sicura realtà. Devi aspettare che verrà. L'unica verità sarebbe troppo bello se comincia e non finisce mai. Il nostro amore rivivrà oltre questa. Prendi il coraggio se ce l'hai.